Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e innanzitutto ancora buon anno, molti auguri di buon anno anche da parte mia, anche da parte della redazione dei colleghi di Magazine 24. Allora, iniziamo questo nuovo anno con quello che tutti più o meno facciamo per l'inizio appunto di un nuovo anno, cioè fare dei buoni propositi. Tutti quanti, chi più chi meno, ci diamo degli obiettivi, diciamo talvolta anche molto ambiziosi, per l'anno che andiamo a iniziare. Oggi la giornata mi sembra ideale, è domenica, abbiamo più tempo anche per pensarci. Allora, noi qua sfogliando un po' tra i vari magazine che sono usciti nei giorni scorsi, che trovate nelle edicole, abbiamo trovato qualche consiglio utile. Ad esempio, su Donna Moderna hanno messo a confronto con l'abituale dialogo in pagina Maurizio Ferraris e Roberto Re, che sono i due abituali protagonisti di questa rubrica lento veloce, proprio sul tema come fare i buoni propositi per l'anno nuovo, perché anche qui è meglio non lasciare niente al caso. Sappiamo già che molti di questi buoni propositi hanno una durata molto limitata, talvolta di qualche mese, talvolta di qualche minuto, però insomma vale la pena di provarci. Allora, se vogliamo provarci, vediamo che cosa ci dicono gli esperti. Ad esempio Ferraris è un docente di filosofia teoretica a Torino e ci spiega che ovviamente la strada dell'inferno, scrive, è lastricata di buoni propositi, non solo perché spesso dispensano delle buone azioni, ma anche perché la frustrazione che deriva da un buon proposito non realizzato può essere infernale, e questo, come sappiamo, è molto vero. Dunque, avverte Ferraris, nel formularli questi buoni propositi bisogna essere cauti. Consiglierei due regole. Primo, esaminate con cura il vostro buon proposito. Secondo, accompagnate questa formulazione di pochi e meditatissimi propositi con una operazione alternativa. Allora, cominciamo dal primo consiglio, perché poi Ferraris spiega anche nel dettaglio come mettere in pratica la selezione dei buoni propositi e anche come cercare di perseguirla. Siete sicure? Ricordiamo che prendiamo da Donna Moderna, quindi l'articolo è virato verso un pubblico di lettrici. Siete sicure, scrive Ferraris, che ad attuarlo starete meglio? Soprattutto, siete sicure di volerlo? Non sarà una fisima derivata da un qualche bombardamento pubblicitario, istinto mimetico, vanità? Vi sentireste di escludere che sia un'aspirazione vaga, che non merita di essere considerata come un proposito o che quantomeno non merita una priorità nella vostra agenda? E poi qui, a questo punto, insomma, se proprio non volete desistere dal vostro buon proposito, Ferraris si gioca anche la carta di Sant'Agostino, che come sapete disse: fammi santo, Signore, fammi santo, però non subito. Ecco, questo è un po' anche l'atteggiamento che spesso abbiamo nei confronti di questi buoni propositi per il nuovo anno. Ma allora, dice, se proprio siete arrivati a una selezione feroce, avete individuato quel 1, 2, 3 propositi, desideri, obiettivi per il nuovo anno, beh, allora fate questa operazione alternativa. Invece di pensare che verrà un giorno in cui tutti i vostri propositi saranno stati attuati e voi sarete salve e redente, pensate di voler essere quello che siete. Per intenderci, c'è chi l'ultimo dell'anno ha detto: domani farò questo o quello, smettere di fumare, smettere di bere, eccetera. Poi l'indomani non attua il suo proposito, così cade in depressione, si consola poi fumando e bevendo, ad esempio. Se invece dicesse: no, questo sono io, voglio fumare, bere, dir male degli altri, lo voglio eternamente, beh, questo sarebbe già un passo avanti, spiega Ferraris, nella strada dell'autoaccettazione, che potrebbe col tempo far sì che si smetta davvero di bere e di fumare. Molto più schematico il consiglio che viene affiancato a questi consigli di Ferraris sui buoni propositi per il nuovo anno, che è a cura di Roberto Re. Roberto Re è un personal coach e in pratica nella vita lui dispensa consigli appunto che aiutano ad attuare i migliori propositi. Dice: innanzitutto ragionate per obiettivi, perché i buoni propositi rimangono poi tali se non vengono trasformati in obiettivi concreti, ossia se non definite chiaramente cosa volete, come e dentro quando avete intenzione di farlo. Quanto più precise sarete, tanto più la vostra mente potrà focalizzarli, immaginarli, ricordarli. Ovviamente non sparate cose fuori dalla vostra portata. Pensate a più di un desiderio, quindi pochi, dice Ferraris, però non uno solo, consiglia Re. Concentratevi su diverse aree della vita invece che solo su una, su cui magari siete particolarmente insoddisfatte, quindi il lavoro, ma anche la famiglia, ma anche le relazioni, le finanze, i miglioramenti personali, insomma, non un solo campo, non un solo buon proposito. E poi vivete in anticipo il successo. Prendetevi almeno mezz'ora lontano da tutto e da tutti, armatevi di carta e penna per definire i propri obiettivi. È fondamentale, consiglierei, metterli per iscritto. Concentratevi su ciò che veramente desiderate ottenere e scrivete tutto ciò che vi viene in mente. Dopodiché selezionate le cose veramente importanti, proiettatevi sulla realizzazione dei vostri obiettivi e cercate di vedervi mentalmente mentre li raggiungete, quando li raggiungerete. Così vivrete in anticipo il successo. Questo è il consiglio di Roberto Re, quindi selezionare bene, concentrarsi, farsi anche degli appunti e magari tenerseli da parte per portare avanti davvero i buoni propositi per l'anno nuovo. C'è però qualche cosa che si può fare in molto minor tempo e forse anche con una minore fatica, perché alla fine appunto sono dei buoni propositi per il nuovo anno, forse non vale neanche la pena di spenderci così tanta energia emotiva. Sono dei cambiamenti da un minuto, li ho trovati su Wired, Wired di gennaio. Sapete che Wired è un mensile dedicato alle questioni tecnologiche, famoso per appunto i suoi approfondimenti tecnici, suo lavoro su internet, i nuovi media e quant'altro. Però all'interno di Wired, all'interno di questo numero di gennaio, c'è un decalogo che è stato stilato da uno psicologo che si chiama Robert Wiseman. E in questo decalogo Wiseman ha cercato di riunire tutti i cambiamenti da un minuto. Perché? Perché si è accorto, e vuole farci riflettere su questo, che per migliorare bastano piccole modifiche che richiedono meno di un minuto. Tra l'altro lui ha fatto pure un libro che si chiama appunto 59 secondi, che sta a dire meno di un minuto. I propositi per l'anno nuovo, allora, raccolti da Maurizio Zoia su Wild. Primo proposito, assolutamente in controtendenza: comprati la felicità. È chiaro che la felicità non si compra, però meglio investire in esperienze, perché i soldi che sono stati spesi in concerti e corsi rendono alla fine più felici rispetto a quelli che sono utilizzati per acquistare oggetti. Quindi compratevi un concerto, compratevi un corso di lingua, un corso di qualcosa che vi faccia progredire in qualche ramo del sapere. Questo è un comprarsi felicità. Ascoltate più musica classica, perché appunto anche qui, prelevando da vari test fatti nelle università americane, ci si accorti che le persone che avevano ascoltato musica classica erano più capaci di rilassarsi rispetto a quelle che avevano sentito altra musica. Quindi puntate sulla musica classica. Non sprecate il sole naturalmente lo sappiamo, ma è dimostrato anche scientificamente, c'è una relazione tra il sole e le emozioni. Il clima caldo con alta pressione migliora la memoria, migliora anche lo stato d'animo. State seduti diritti, perché secondo appunto altri studi condotti sempre in college e università americane è dimostrato che chi si siede diritto è più felice di chi tende a stravaccarsi, questo è il termine testuale, sulla sedia. Affrontate le cose con più leggerezza. Beh, questo sì, è un ottimo proposito per l'anno nuovo, ma forse di quelli che dicevamo in precedenza. Non cadete nei tranelli degli altri, quindi meglio stare attenti a chi offre sconti, affari non richiesti, così come di chi mentre contratta con noi parte da richieste irragionevoli. Questi sono degli atteggiamenti in cui bisogna non farsi trascinare. Sorridete di più, utilizzate meglio le mail, perché le persone tendono a mentire, hanno spiegato degli universitari, degli professori universitari americani, nel 37% delle telefonate, nel 27% delle conversazioni, ma solo nel 14% dei casi quando scrivono una mail. Quindi se usate la mail potete arrivare più vicini alla verità. Questo perché la posta elettronica poi si può conservare, quindi le bugie possono possono essere più facilmente smascherate. Nono consiglio: osservate i cani per capire i padroni. E infine, ultimo consiglio: sfruttate l'inconscio, perché Freud diceva: quando prendo una decisione qualunque considero prima tutti i pro e i contro, ma nelle faccende vitali è meglio fidarsi dell'inconscio, perché le risposte alla fine sono nascoste in un luogo dentro di noi. Non so se potete considerarlo un buon proposito per l'anno nuovo, ma su un altro mensile che trovate già in edicola nel numero di gennaio, cioè Focus, c'è una serie di ottimi consigli per dormire e sognare. Il sogno non è magari un ottimo proposito, però aiuta parecchio, si scopre appunto leggendo questo numero di Focus, e anche il dormire è qualcosa che può aiutare molto nell'umore, nel morale, nel risollevarsi. Allora, come buon proposito, prima di fermarci per i consigli sul traffico, vi voglio segnalare il quanto dormire fa parte di una delle molte pagine che Focus dedica in questo numero ai sogni e al sonno. Quanto bisogna dormire ogni giorno? Qui non c'è una regola fissa, perché hanno documentato anche casi di persone che dormivano un'ora al giorno senza palesi alterazioni a livello neurologico. Si dice che Einstein, d'altra parte, dormisse 12 ore, quindi non è detto che dormire di meno faccia per forza la persona più reattiva o più determinante per l'umanità tutta, addirittura. Pare che l'ex primo ministro britannico Thatcher dormisse 5 ore a notte. In media la durata del sonno, scrive Focus, è di 7 ore o poco più. L'insonnia, tra l'altro, non è tanto un problema di durata quanto di qualità del sonno, perché ne soffre soprattutto chi dorme male ed è assonnato di giorno. Quindi non è un fatto di quanto si dorme, ma quanto bene o male si dorme. Questo è appunto il senso dell'insonnia. Vi farà piacere sapere che molte scoperte scientifiche, anche importanti, sono venute in sonno, anzi in sogno. La struttura molecolare del benzene, ad esempio, fu sognata dal chimico Friedrich August Kekulé, che si sognò proprio l'anello chiuso degli atomi di carbonio, che è la struttura del benzene, e tra l'altro questo esperimento gli valse poi il premio Nobel. E in sogno si dice che Elias Howe inventò l'ago della macchina per cucire, che William Blake trovò una nuova tecnica per le sue incisioni, che Coleridge concepì un poema, Kubla Khan, che Stevenson vide in sogno due scene della sua futura opera, Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde, e che Giuseppe Tartini in sogno abbia addirittura immaginato il suo Trillo del diavolo. Paul McCartney avrebbe sognato la melodia di Yesterday. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, ancora buon anno da parte mia, da parte di tutta la redazione di Magazine 24. Stavamo parlando di buoni propositi per il nuovo anno, ma naturalmente nei magazine che trovate in edicola c'è uno degli sport preferiti da noi giornalisti, cioè quello di fare delle classifiche, delle rassegne del passato e anche per il futuro. Quindi la settimana è stata particolarmente propizia, perché collocandosi così un po' a cavallo si è prestata sia alle previsioni per il 2011, previsioni di varia natura naturalmente, non quelle di tipo necessariamente astrologico, ma anche al bilancio di un decennio in chiusura. Allora, tra i tanti bilanci, vi segnalo ad esempio Famiglia Cristiana ha fatto un riassunto dell'anno appena chiuso, ha indicato come uomo dell'anno tra l'altro il Cardinale di Milano, Dionigi Tettamanzi. Altri settimanali hanno fatto delle raccolte, delle rassegne anche fotografiche interessanti con gli eventi più importanti del 2010. Panorama prova nella sua sezione dedicata proprio a 2000-2010, cioè il bilancio del decennio, a tracciare alcune linee. Ad esempio, sicuramente è stato un decennio, quello che abbiamo appena lasciato, ad altissimo contenuto tecnologico, ha cambiato parecchie cose. Claudio Cerasa prova a riassumerle in due pagine, immagine questi grandi cambiamenti. Facebook, poi Assange, Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, Twitter, l'iPad, sono i nomi che hanno segnato questo decennio e che, preconizza appunto Cirasa, ci seguiranno nel prossimo decennio, quindi anche da oggi in avanti, da ieri in avanti. Dice: bisogna mettere i loro nomi in fila uno dopo l'altro per provare a capire l'effetto che fa. I nomi sono questi: Napster, Wikipedia, MySpace, Facebook, Twitter, Amazon, iTunes, YouTube, Skype, eBay, Candle, iPod, Gmail, iPhone, G-Phone e così via. Ce ne sono anche altri, ma possiamo fermare l'elenco a questo punto. E poi naturalmente segue l'elenco dei fondatori di tutta questa roba, tra cui appunto Steve Jobs, Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page, Murdoch e così via. Ecco, sono tutti nomi che sono stati protagonisti, scrive Cirasa, dell'evoluzione tecnologica dei primi 10 anni del nuovo millennio, che in un modo o nell'altro hanno guidato il cammino lungo le strade delle più recenti ere geologiche digitali. 10 anni in cui, scrive sempre Cirasa, gli smanettoni, cioè gli appassionati di tecnologia di mezzo mondo, si sono ritrovati di volta in volta ad armeggiare con centinaia di nuovi strumenti mozzafiato che hanno permesso loro ora di leggere giornali su una tavoletta, ora di catturare immagini con una macchinetta digitale, ora di sbirciare in tempo reale i video presenti in ogni parte del mondo e ora di connettersi con tutti gli amici disseminati qua e là in ogni angolo del pianeta. Tutto questo, ricorda Cirasa, è cominciato attorno alla musica. Il codice che ha cominciato a cambiare tutto è l'MP3. L'MP3 è il codice appunto di memorizzazione che è stato utilizzato per digitalizzare la musica, e da lì, dalla condivisione poi di questi file e ohimè anche dalla diffusione pirata di questi file, poi molte cose sono andate avanti. La prima grande creatura, infatti, ricorda Cirasa, che inizialmente esplose e rapidamente implose all'inizio del millennio, è stata proprio la società piratesca, peraltro lanciata, è sempre piratesca di Cirasa, non è una mia interpolazione, lanciata alla fine del 99 da Sean Fanning e Sean Parker. Il nome era Napster, era il primo esempio di sistema peer-to-peer, cioè scambio di file tra pari, che permise la rapida condivisione di file musicali tra gli utenti presenti in ogni parte del mondo. Napster in realtà crollò con la New Economy, con parte della New Economy, dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Ci fu, come ricorderete, un forte crollo di borsa, un forte crollo dei mercati finanziari, e soprattutto a farne le spese furono le società della cosiddetta New Economy, cioè quelle legate al digitale. Non resistette neanche alle denunce delle industrie discografiche, che naturalmente non erano affatto d'accordo con questa diffusione gratuita tra pari di file musicali. Stiamo ancora appunto discutendo sul modo efficace di tutelare o meno il diritto d'autore in rete. Vedremo se in questo decennio che cominciamo riusciremo a trovare un punto di soddisfazione. Una rivoluzione, continua Cirasa, che da un lato ha dato vita all'universo dei social network, quindi da questi MP3 scambiati si è passati poi ai social network, dall'altro ha permesso anche la diffusione di tutti i prodotti legati alla riproduzione dei file musicali. Quindi qui andiamo dall'iPod, cioè da questi lettori digitali che più o meno tutti ormai possediamo per ascoltare musica, fino all'attuale iPad, che in realtà non è nato per ascoltare musica, è più che altro per leggere, per consultare appunto libri, riviste, giornali, e che però insomma si basa un po' sullo stesso principio che regge appunto i lettori di file musicali. Tra l'altro, la musica ancora guida la prima affermazione di MySpace, che è un po' il primo social network. Fu fondato nel 2003 e furono due studenti che ebbero l'idea di sperimentare in rete una grande community, una grande comunità che potesse creare una condivisione soprattutto di materiale musicale. 3 anni dopo hanno venduto la loro società alla News Corporation per $580 milioni, quindi decisamente per questi due signori, che si chiamano Tom Anderson e Chris DeWolf, il decennio è stato propizio. Nella scia di MySpace poi siamo passati naturalmente a Facebook. Facebook ha le sue origini nel 2004, non c'è bisogno che vi dica cos'è, perché ormai ha, pare, 500 milioni o più di utenti in tutto il mondo, quindi è un prodotto assolutamente popolare. E poi gli altri social network come Twitter o altro ancora. Naturalmente l'iPod, il primo iPod è stato venduto per per la prima volta nel giugno del 2001. Quindi ha segnato il decennio, ha consentito in qualche modo una diffusione capillare dei file musicali, e con questo successo poi ha consentito a Steve Jobs di presentare altre due trovate, altre due chicche, così le definisce Cerasa. Da una parte l'iPhone, altro strumento, appunto questo smartphone, telefoni intelligenti che fanno più cose oltre a telefonare, e poi l'ultimo arrivato, appunto l'iPad, di cui abbiamo già parlato. Tutto questo decennio così digitale, così fortemente digitale, come lo ha riassunto Claudio Cerasa su Panorama. In realtà non c'è solo il digitale, proviamo a guardare avanti magari nel reale. È un lavoro che prova a fare l'Espresso, tra le pagine dedicate appunto a dove siamo e dove potremmo andare si trova anche un'inchiesta molto interessante sui cinesi made in Italy. Perché vi parlo di cinesi? Perché in un certo senso, e qualche giornale, ad esempio Nouvel Observateur dedica la copertina alla Cina, qualche giornale, qualche magazine appunto segnala come la Cina sia stata protagonista di questi ultimi anni e si avvia a diventare il protagonista assoluto del decennio in cui stiamo entrando. Allora è interessante cercare di capire come i cinesi, ad esempio in casa nostra, che vivono in Italia, si stiano o meno integrando. Secondo il lavoro presentato sull'Espresso di questa settimana da Federica Bianchi, ci sono delle novità importanti, perché storicamente noi siamo abituati a pensare alla comunità cinese come a una comunità molto chiusa, autosufficiente, ma l'arrivo delle seconde generazioni, appunto con bambini che sono nati qui, che hanno studiato nelle scuole italiane, ci sono segnali di integrazione maggiore. Vi leggo qualche passaggio per farvi cogliere appunto il senso del lavoro di Federica Bianchi sull'Espresso. C'è appunto da una parte il risentimento, spiega, per questa avanzata cinese, che è anche un'avanzata economica molto importante e che in qualche modo ci fa concorrere. Ad alimentare il sentimento, dice, sono soprattutto due fattori: il successo economico che è stato raggiunto dalle comunità cinesi, le quali hanno sfruttato non solo il fiuto imprenditoriale ma anche gli anelli deboli del nostro sistema economico, cioè l'evasione fiscale, l'impiego di manodopera in nero ad esempio. Poi c'è l'autoreferenzialità della comunità, che è in grado di aiutare i propri membri sotto ogni aspetto, dal sostegno economico a quello legale, rendendo inutile per i nuovi arrivati perfino imparare la lingua italiana. Ecco, questo è un po' il punto di partenza. Questo è il punto di partenza che però, spiega Federica Bianchi, sta cambiando, perché il successo economico porta con sé inevitabili cambiamenti. Con la maggiore visibilità aumenta la radicalizzazione sul territorio, aumenta l'esigenza di un maggior rispetto delle leggi, quindi c'è in qualche modo una contrazione dell'illegalità. Qualche intervistato appunto sull'Espresso spiega, sì, le situazioni lavorative spesso sono ancora illegali, però sono un po' meno illegali di prima, per quanto la cosa possa suonare paradossale. Effettivamente è quello che si vede man mano che le attività economiche si radicano. Inoltre stanno cambiando le aspirazioni professionali di questa comunità, perché storicamente in Italia, se sei un immigrato e cerchi prospettive di crescita, lo dice un sociologo, Daniele Cologna, lo spiega all'Espresso Daniele Cologna, l'unica via che hai di farti avanti è quella imprenditoriale. La cosa è tanto più facile per un immigrato quanto più la tua comunità ti aiuta a reperire capitali e relazioni, chiedendo naturalmente in cambio una fedeltà e disponibilità assoluta ad aiutare a tua volta i nuovi arrivati. Questo però in realtà viene meno con le nuove generazioni, perché hanno meno bisogno di questo rapporto così stretto con la comunità di origine, possono anche rompere il cordone ombelicale perfino con la loro ambasciata e quindi andarsene per conto loro, scegliere loro un destino lavorativo. Molto bello il destino lavorativo di Steven Luo, raccontato sempre sull'Espresso, il quale è cresciuto in Italia e se n'è poi tornato in Cina a 24 anni per fare l'imprenditore ed esportare in Cina i prodotti italiani naturalmente di successo. Quindi, come scrive l'Espresso, a pensarci è il colmo: c'è un cinese inglese, figlio di clandestini, che diventa l'ambasciatore dei prodotti italiani puro sangue, stremati dalla concorrenza, per lo più cinese, per farli rinascere nell'unico mercato davvero in crescita. E il giudizio di Steven Luo è addirittura feroce nella sua sintesi, dice: ma in fondo gli italiani sono provinciali perché non conoscono le loro potenzialità. In Italia si sta bene, ma il mio futuro lavorativo ormai è a Pechino. Qui la TV parla di aziende che crescono, di città che si sviluppano, in giro c'è voglia di fare. In Italia invece la gente ha tutto e non sogna più niente. La TV parla solo di scandali e di risse politiche. E quando apro un giornale leggo che un giovane su tre non trova lavoro. Questa la drastica sintesi di Steven Luo. Naturalmente noi ci auguriamo che si sia sbagliato di grosso in questo quadro del nostro paese, e quindi rinnoviamo invece i migliori auguri per un 2011 di successo, di riscossa per tutti quanti. Grazie a Peter Bescapè questa mattina con me, grazie a Luca Rinaldi che mi ha aiutato in questa prima puntata del nuovo anno. Magazine 24 ritorna sabato prossimo. Buon anno a tutti.